Lascio l'azienda più bella del mondo, così Montezemolo nel giorno dell'addio alla Ferrari. Presidente dell'azienda sarà Sergio Marchionne, che dice con Luca incomprensioni, ma lo ringrazio. Il titolo Fiat guadagna quasi il 3%. Confcommercio, il reddito disponibile delle famiglie è tornato ai livelli di 30 anni fa. Riunione di governo stamattina, primo giro di incontri tra Renzi, Padoan e i ministri sui tagli di spesa. Ma il presidente del Consiglio è alle prese anche con i problemi interni al PD. L'indagine su due candidati alle primarie per l'Emilia-Romagna apre un nuovo fronte nel partito. Obama prepara il discorso con il quale annuncerà gli attacchi aerei contro gli jihadisti. Sull'allerta per attentati in Italia sentiremo il presidente del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti. Due partite, due vittorie per 2-0. Buona anche il match di Antonio Conte per la qualificazione per l'Europeo contro la Norvegia. La mia Italia ha fame, dice il CT. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare durante la trasmissione, come sempre c'è il 349-238-6666. Se volete scriverci invece, effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dalla presentazione della squadra con la quale Jean-Claude Juncker comporrà la nuova Commissione Europea. È stata presentata poco fa, e anzi la presentazione in realtà è ancora in corso, in diretta da Bruxelles, il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Beda, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, come si compone questa commissione? Ma credo che la cosa più interessante di questa nuova commissione Juncker è la struttura, in realtà, perché il presidente sarà coadiuvato da 7 vicepresidenti che saranno ciascuno responsabile di una priorità, che Juncker ha cavalcato durante la campagna elettorale in primavera. 3 mi sembrano le vicepresidenze interessanti, in particolare per l'Italia. La prima è quella che sarà legata all'euro e al semestre europeo, che viene affidata a Valdis Dombrovskis, un ex primo ministro lettone, e che tra gli altri commissari coadiuverà quello degli affari economici e monetari, un portafoglio affidato a Pierre Moscovici, l'ex ministro delle finanze francese. La seconda vicepresidenza particolarmente importante è sempre economica e riguarda l'ex premier finlandese Jyrki Katainen, che sarà lui responsabile invece dell'occupazione, degli investimenti, della crescita, e quindi sarà la persona che dovrà mettere a punto il piano da 300 miliardi di euro promesso da Juncker in luglio. Infine, terza vicepresidenza importante, quella italiana, quella affidata alla signora Federica Mogherini, attuale ministro degli esteri in Italia e prossimo alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza. La signora Mogherini sarà anche vicepresidente della Commissione e in questa posizione coordinerà alcuni importanti portafogli, tra cui la politica di vicinato, l'allargamento, lo sviluppo, l'aiuto umanitario e soprattutto il commercio. Quindi anche la signora Mogherini nella sua posizione potrà a suo modo influenzare le politiche economiche della nuova Commissione. Allora, secondo una tua prima valutazione, Beda, perché poi la domanda che si stanno facendo tutti naturalmente è forse un po' grossolana: equilibrio tra rigoristi e quelli che pensano un po' più allo sviluppo c'è? È più sbilanciata da una parte o dall'altra? È una domanda difficile a cui rispondere, perché il tentativo di Jean-Claude Juncker di creare queste vicepresidenze a progetto hanno un doppio obiettivo. Il primo obiettivo evidentemente è la trasparenza. La pubblica opinione deve guardare alla Commissione come un esecutivo comunitario che ha deciso nei prossimi anni di mettere a segno un certo numero di priorità ben chiare, ed è ben chiara la persona che è responsabile di raggiungere queste priorità. Poi evidentemente c'è anche il sottile tentativo un po' di annacquare, no? di eliminare dalla scena questa contrapposizione tra nord e sud o tra rigoristi e meno rigoristi. è interessante notare, per esempio, che, come dicevo prima, il portafoglio degli affari economici e monetari è stato affidato a un ex ministro delle finanze francese, Pierre Moscovici, ma il ruolo di vicepresidenza a cui spetterà la supervisione di questo portafoglio è stato affidato a un ex primo ministro lettone. E quindi c'è il tentativo in questo caso di evitare che il portafoglio economico e finanziario diventi troppo potente, troppo potente, troppo presente nella vita pubblica europea e nazionale. Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, e ora passiamo all'altra notizia di giornata e di queste ore, insomma la più importante di queste ore, che è il cambio della guardia ai vertici della Ferrari. Avrebbe dovuto guidare la storica casa di Maranello fino al 2017, almeno questo era il mandato che il Consiglio di Amministrazione aveva dato a marzo scorso a Luca Cordero di Montezemolo, ma negli ultimi giorni Sergio Marchionne ha spinto sull'acceleratore e la velocità di cambiamento è stata simile a quella di una rossa portata ai massimi giri. Domenica il suo nessuno è indispensabile e tre giorni dopo l'annuncio del cambio al vertice. Montezemolo è stato la guida della Ferrari per 23 anni, i risultati economici non sono in discussione, lo scorso anno la casa di Maranello ha registrato un fatturato di 2 miliardi e 3 in crescita rispetto al 2012, più in discussione i risultati in pista. Dopo tanti anni di successi, l'ultima Ferrari a regalare soddisfazioni in Formula 1 è stata la F2008 con Raikkonen e Massa al volante, ma i risultati deludenti in pista c'entrano fino a un certo punto. Fra poco più di un mese FCA si quoterà a Wall Street, il manager italo-canadese ha spinto per un cambio al vertice per prendere lui il volante della Ferrari. Ieri hanno raggiunto un'intesa, oggi i ringraziamenti di rito affidati ad un comunicato stampa. Manca la cifra esatta della buonuscita di Montezemolo, si parla di circa 20 milioni di euro. Per lui intanto sembra essere più certa la presidenza di Alitalia, viste anche le dichiarazioni della D di Unicredit, Ghizzoni, secondo il quale Montezemolo, vista l'esperienza, potrebbe essere un buon nome. Stefano Totoro, Radio 24, il Sole 24 Ore. Intanto, come già sentivate nei titoli, il titolo Fiat, le azioni della Fiat salgono questa mattina del 2,92%. Naturalmente grande attesa anche per la conferenza stampa che si svolgerà alle 14, che vi racconteremo nel corso della giornata, una conferenza stampa congiunta da Maranello con Luca Cordero di Montezemolo e lo stesso Sergio Marchionne, quindi una conferenza stampa dove ci saranno, nella quale ci saranno tutti e due. Passiamo a parlare della politica economica, ma prima ancora di toccare il tema del Consiglio dei Ministri di questa mattina, del primo giro di incontri di Renzi con i ministri per definire i tagli di spesa, ci sono i dati diffusi questa mattina da Confcommercio che parlano di consumi a picco. Gli italiani non spendono più, e questo in parte lo sapevamo, il reddito disponibile, e questo lo viviamo sulla nostra pelle, serve a coprire solo le spese obbligate come affitti, bollette e sanità. Qualche dettaglio da Mariano Bella, direttore del centro studi di Confcommercio, intervistato da Adriano Palazzolo. Trovare dati rassicuranti oggi, diciamo, è abbastanza difficile, ma vogliamo comunque avere una visione positiva per il futuro prossimo. Bisogna però evitare di nascondere la realtà. L'uscita dalla recessione dei consumi degli ultimi anni appare lentissima, anche in confronto con l'episodio 2009-2010 in cui uscimmo temporaneamente dalla crisi dei consumi. Oggi veramente siamo a un ritmo quasi impercettibile, quindi questo giustifica la nostra richiesta di procedere, di insistere, di accelerare con le riforme strutturali, con la spending review e soprattutto con la riduzione generalizzata delle imposte, che dovrebbe coinvolgere anche i lavoratori indipendenti e i pensionati, fino adesso ingiustamente esclusi per esempio dal provvedimento del bonus degli 80 euro. Quello che emerge dalla nostra riflessione sui consumi è purtroppo la continua crescita del peso delle spese obbligate, cioè quelle spese come gli affitti, l'energia, l'acqua e i rifiuti, sulle quali, diciamo, non si può esercitare una piena libertà di scelta da parte dei consumatori, perché sono offerti in mercati poco liberalizzati, e i prezzi di questi beni, di questi servizi sono cresciuti moltissimo, più del doppio rispetto ai prezzi dei consumi commercializzabili, e questo sostanzialmente riduce la libertà di scelta e giustifica anche il senso di disagio che oggi i cittadini italiani percepiscono. Questo è il quadro e le indicazioni che arrivano da Mariano Bella, lo ripetiamo, direttore del centro studi di Confcommercio. Nel frattempo, sempre notizie economiche che riguardano il bilancio pubblico, il Tesoro ha collocato tutti gli 8,25 miliardi di euro di titoli offerti per quanto riguarda i titoli ad un anno. I tassi sono scesi da un nuovo minimo storico allo 0,271% rispetto allo 0,279% della precedente emissione. Allora, adesso abbiamo sentito i dati forniti da Confcommercio che riguardano i consumi, anche con questo si deve confrontare l'esecutivo che si appresta a preparare naturalmente la manovra, la legge di stabilità, varo entro il 15 di ottobre e oggi inizia il giro di consultazioni con i ministri. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, primo giro di consultazioni sulla spending review. Sul tavolo del governo Simone il dossier presentato al Presidente del Consiglio Renzi dal commissario Cottarelli. In ballo ci sono 20 miliardi di risorse da recuperare che useremo per gli 80 euro e per gli altri interventi, ha annunciato lo stesso Renzi. Allora il Consiglio dei Ministri in corso in questi minuti ha l'obiettivo proprio di mettere nero su bianco per ciascun ministero i possibili tagli non lineari, una media del 3% per ciascun dicastero, nessuno escluso a partire della stessa Presidenza del Consiglio. Secondo fonti di Palazzo Chigi si potrebbe parlare oggi anche della legge di stabilità e dei prossimi interventi su IRAP e cuneo fiscale, ma di tasse ha parlato lo stesso Renzi ieri a Porta possiamo ascoltare un passaggio. Che noi nella legge di stabilità del 15 avremo un'ulteriore riduzione di tasse sul lavoro. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo già iniziato. Noi siamo il primo governo nella storia italiana che sistematicamente si prefigge l'obiettivo di ridurre le tasse. In finanziaria ci saranno meno tasse sul lavoro, garantisce allora il Premier, quanto al prodotto interno lordo a fine anno sarà intorno allo zero, un livello che non basta per ripartire, ammette lo stesso Renzi. Da Roma è tutto. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta. E mentre Renzi si deve confrontare con la politica economica, nel suo ruolo di segretario del Partito Democratico deve anche gestire una serie di questioni, a partire naturalmente da quelle che riguardano l'Emilia Romagna, passando poi naturalmente per la nuova segreteria del partito. Abbiamo in linea, dovremmo avere in linea Elisabetta Fiorito da Montecitorio. Sì. Elisabetta, eccoci. Buongiorno allora Simone, dopo il caos delle primarie in Emilia Romagna, regione strategica ricordiamo per i democratici, la riunione della direzione del PD viene rinviata da domani a martedì prossimo, il parlamentino avrebbe dovuto occuparsi della nomina della nuova segreteria, ma probabilmente l'attuale vertice di partito deve prima vedersela con i casi Richetti e Bonaccini, candidati democratici, entrambi indagati per peculato e dell'area renziana. Richetti si è ritirato, Bonaccini no, ma sul web la base democratica chiede al candidato di ritirarsi dopo il pasticcio compiuto. Lui per il momento resiste, mostra fiducia nei giudici e nella sua onestà. Sul fronte interno poi Renzi se la deve vedere anche con le critiche di Stefano Fassina, per il quale è impossibile sul piano politico tagliare 15 o 20 miliardi come promesso nella spending review. Se si facesse, dice Fassina, si aggraverebbe la condizione economica del paese, oltre ad intervenire in modo negativo su welfare, spesa sociale, spesa per sanità e scuola. C'è poi il capitolo delle nomine della Consulta e del CSM, a questo proposito i gruppi di Camera e Senato si riuniranno qui alle 15 sì. A Montecitorio in pole position per sì, i democratici. Sì, ti fermo Elisabetta, grazie, ti fermo Elisabetta Fiorito perché proprio di questo ci parla adesso la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, eccoci. Sì Simone, come anticipava Betta, l'ultimo tentativo è proprio oggi pomeriggio, ma se sarà ancora fumata nera, la settimana prossima si voterà ad oltranza per sbrogliare il nodo dell'elezione dei due giudici della Consulta e degli 8 membri laici del CSM. È stata convocata in realtà in questi minuti la conferenza dei capigruppo di Camera e Senato per stabilire i tempi del nuovo scrutinio, quello di stamattina, l'ottavo per la Consulta e il settimo per il CSM, si è risolto in un nulla di fatto nonostante il richiamo del capo dello Stato ad assolvere ad adempimenti definiti non più differibili. L'accordo sui nomi non è stato ancora raggiunto sia per la la Consulta, dove due giudici sono scaduti dal 28 giugno, sia per gli 8 laici più il vicepresidente del CSM che ha terminato il mandato a fine luglio e che è chiamato a scelte delicate come il nuovo procuratore di Palermo e la riconferma o meno di quello di Milano. Per Palazzo dei Marescialli 4 nomi saranno in quota PD, 1 per il nuovo centrodestra, mentre per i 3 assegnati all'opposizione Forza Italia dovrà vedersela con i 5 Stelle. Per la carica di vicepresidente del CSM in pole position c'è Massimo Brutti, ex responsabile giustizia del PD, ma avanza pure Giuseppe Fanfani, sindaco di Arezzo. Le trattative più serrate si stanno consumando però soprattutto sui due nomi da mandare alla Corte Costituzionale. Il PD propone l'ex magistrato Luciano Violante, Forza Italia l'ex toga ed ex antitrust Catricalà, ma i due candidati devono superare innanzitutto gli sfidanti interni e la nuova chiama, come dicevamo, forse già nel pomeriggio. Simona. Grazie dunque Raffaella Calandra, e adesso parliamo di calcio e razzismo. L'ultimo episodio domenica scorsa, ve l'abbiamo raccontato, il fratello naturale di Mario Balotelli insultato durante una partita di eccellenza da alcuni tifosi con epiteti appunto razzisti. Sullo sfondo naturalmente il caso Tavecchio, ed è proprio lui il grande assente al vertice UEFA di Roma contro le discriminazioni. I lavori li sta seguendo Dario Ricci. Dario, innanzitutto buongiorno. Sì, buongiorno Simone da Roma, hai detto bene, il grande assente di questa conferenza per il rispetto delle diversità, ma di fatto contro il razzismo e la discriminazione del calcio promossa dall'UEFA, è proprio lui, Giorgio Tavecchio, il presidente della Federcalcio, che lo ricordiamo è sotto inchiesta da parte dell'UEFA proprio per le famigerate frasi a sfondo razzista. Ma di fatto il governo del calcio europeo prova a fare il punto sulla lotta contro il razzismo proprio in questa due giorni romana. A rappresentare la Federcalcio c'è cioè Fiona May all'esordio nel ruolo di consigliere proprio della FIGC sui temi proprio della lotta al razzismo e della discriminazione. È già arrivato Michel Platini, il gran cerimoniere, presidente dell'UEFA, quindi fra poco si apriranno i lavori. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio in rappresentanza del governo e poi molti protagonisti del mondo del calcio, già arrivato anche Andrea Agnelli, il presidente della Juventus, che racconterà dell'esperienza della collaborazione fatta dal club bianconero con l'UNESCO. Insomma, speriamo non siano solo parole, ma poi da questi due giorni arrivino anche fatti concreti, Simone. Allora, grazie al nostro Dario Ricci intanto. Nel frattempo mi ha già raggiunto in studio Carlo Genta, al quale tra un attimo chiederemo un commento su questa seconda partita di Antonio Conte, come si diceva, insomma, in un gioco di numeri, due partite, due vittorie per 2-0. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Juncker presenta la squadra della nuova Commissione europea, il francese Moscovici all'economia, Mogherini agli esteri, ma tutte le competenze saranno coordinate e distribuite in maniera diversa rispetto al passato. Montezemolo dice addio alla Ferrari, lascio l'azienda più bella del mondo, presidente sarà Sergio Marchionne, il titolo Fiat guadagna quasi il 3%. Confcommercio, il reddito disponibile delle famiglie è tornato ai livelli di 30 anni fa. E ora parliamo di calcio e parliamo della partita di ieri della Nazionale. Carlo Genta, ciao, bentornato. Ciao Simone, bentornato. 2-2-2. Due partite, 2-0, due vittorie. Due vittorie, però stavolta anche tre, come i punti che l'Italia ha infilato nella classifica del gruppo H di qualificazione agli europei. Era il debutto in una partita ufficiale di Conte. Non è stata molto diversa questa partita rispetto a quella dell'Olanda, quindi un'Italia che ha sbloccato subito, con Olanda subito 2-0, avversaria in 10 partita chiusa, qui 1-0 per il gol di Zaza, che è stato il migliore in campo, la grande novità e sorpresa degli azzurri, questo attaccante del Sassuolo, segnato dopo 15 minuti. Nella ripresa il raddoppio di Bonucci, in mezzo un grande controllo della partita da parte dell'Italia, Buffon non ha mai corso rischi, non ineccepibile la fase difensiva, anche se non sono riusciti a farci male, ma un'Italia solida. Divertente quest'Italia o no, Carlo? Ma divertirsi credo sia un'altra cosa, diciamo che è un'Italia che dà un'immagine di grande compattezza, di grande solidità, assomiglia già molto a una squadra di Conte, quanto ai fuochi d'artificio, ai lustrini, alle stelle filanti, aspettiamo un po'. Va bene, vedremo se continuerà ad aver fame questa nazionale, come dice lo stesso Conte, e se ne parlerà, si parlerà anche di questo naturalmente in tutti i convocati, a partire dalle 14. Noi cambiamo decisamente argomento adesso e andiamo all'estero, ci spostiamo in Iraq, o meglio, negli Stati Uniti, dove si prepara l'offensiva contro l'ISIS. Ad un anno di distanza dalla decisione del Congresso di bloccare un attacco missilistico contro la Siria, Barack Obama sembra pronto ad autorizzare una serie di raid aerei contro l'ISIS nel paese medio orientale e al confine con l'Iraq. Mentre proseguono i bombardamenti per agevolare le forze irachene, curde e sunnite che combattono l'esercito dello Stato Islamico sul campo, le azioni potrebbero allargarsi anche alla Siria. Una decisione che, secondo la Casa Bianca, non avrebbe bisogno dell'autorizzazione del Congresso. Di fronte alla protezione della sicurezza nazionale, il Presidente avrebbe infatti l'autorità per decidere da solo. L'intervento andrebbe a far parte di un'estesa campagna militare per sconfiggere lo Stato Islamico che verrà presentata questa sera. Un discorso alla nazione con il quale Obama cercherà di convincere gli americani della necessità di una vasta offensiva contro la minaccia jihadista in Iraq e in Siria, escludendo però l'invio di soldati statunitensi. Dopo la visita sorpresa in Iraq, intanto il segretario di Stato John Kerry sarà in Arabia Saudita per incontrare i ministri degli esteri dei paesi del Golfo, una missione con cui gli Stati Uniti mirano ad organizzare un'ampia coalizione per sconfiggere le milizie jihadiste dello Stato Islamico. Miriam Corgia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo torneremo a parlare più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Parleremo soprattutto di questo allarme o allerta terrorismo che ha inteso lanciare ieri il ministro dell'Interno Angelino Alfano per quanto riguarda l'Italia, dicendo che noi potremmo essere obiettivo degli jihadisti. Lo faremo con Paolo Magri, direttore dell'ISPI, e con Giacomo Stucchi, che è il presidente del COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti. Intanto però saluto Andrea De Franceschi, che è consigliere del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna. Buongiorno De Franceschi. Buongiorno. E bentornato ai nostri microfoni. È la persona che ha fatto la denuncia, che ha presentato l'esposto, che ha portato all'indagine sui due, uno in realtà è un ex candidato alle primarie del Partito Democratico per la guida dell'Emilia Romagna, ossia Richetti, e l'altro lo rimane ancora, ossia Bonaccini. Che cosa c'è in questo esposto, De Franceschi? No, per la precisione il mio esposto riguarda le notizie, riguarda solo Richetti, perché lui era presidente dell'Assemblea legislativa, per cui erano gli unici dati a cui potevo accedere, mentre i dati dei gruppi consigliari sono segreti, per cui noi non sappiamo come il PD spende ogni anno 1 milione di euro in Emilia Romagna come base dei gruppi consigliari, quelli erano dati a cui avevo accesso. Ci sono i viaggi del presidente in giro per la regione, in giro per l'Italia. Il punto su cui anch'io avevo pensato che ci fosse il peculato, vedo che la magistratura insomma concorda nell'indagare su questo punto, è che noi come consiglieri regionali prendiamo un rimborso chilometrico per il tragitto casa-lavoro, quindi casa-regione, e se contemporaneamente ti intaschi 100, ma in alcuni casi diventavano a scuola della distanza dalla regione anche 200-300 euro al mese, e perché dovrebbero pagare la benzina autostrada e ti fai invece venire a prendere l'auto blu, quei 100, 200, 300 euro te li metti in tasca e in tasse così. E sostanzialmente entrano nelle tue tasche. In sostanza di quanti soldi si parla nel complesso, De Franceschi? Lei ha fatto dei calcoli? No, io credo, è compito degli organi inquirenti. Io ho portato di un anno e mezzo le ricevute che avevo, segnalando i singoli casi, allegandone le fotocopie, poi è compito degli inquirenti, non mi sostituisco a nessuno, lo valuteranno loro, ma sa, poi il concetto a me ha sempre interessato poco che si parli di 100, di 1000 o di 1 milione di euro, il problema è la gestione, come dire, per usare un eufemismo, allegra della cosa pubblica e dei soldi dei cittadini. Senta, a sua impressione, e qua la viro sulla politica, non per quello che riguarda in realtà il Movimento 5 Stelle, ma per quello che riguarda il PD, insomma, come dire, questa cosa era nell'aria oppure no? Perché, come sa, qua è chiaro che sono questioni interne al PD, però alcuni dicono su Richetti ci sono state pressioni da Roma perché insomma dismettesse la candidatura alle primarie, altri dicono era nell'aria l'indagine e quindi ha preferito, come dire, togliersi di mezzo. Ma non saprei, sono veramente questioni che riguardano un altro partito in cui non entro, mi annoiano anche abbastanza, non ne sono proprio abituato perché da noi non è così. Di certo che nell'aria, le indagini sono nell'aria da 2 anni, per cui non so perché poi in questo momento i candidati abbiano fatto determinate scelte, sono veramente questioni loro e anche abbastanza tristi, avvilenti, diciamo. Allora, la ringrazio, grazie a Andrea De Franceschi, consigliere del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, la persona, come si diceva, che ha presentato questo esposto e che riguarda Matteo Richetti, che ha portato appunto all'apertura dell'indagine nei confronti di Richetti. Grazie De Franceschi, le auguro buona giornata, noi ci fermiamo, poi ci ritroviamo tra un attimo con la borsa e poi, come si diceva, dopo passiamo a parlare di terrorismo internazionale, di jihadismo internazionale, parleremo di Iraq, di Siria e naturalmente anche di possibile, speriamo che non lo sia, terrorismo in casa nostra. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Juncker presenta la squadra della nuova Commissione europea, il francese Moscovici all'economia, Mogherini agli esteri. Lascio l'azienda più bella del mondo, così Montezemolo nel giorno dell'addio alla Ferrari. Il presidente sarà Sergio Marchionne, il titolo Fiat guadagna oltre il 2,5%. L'Iraq, alla vigilia dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre, Obama presenta il discorso nel quale prepara il discorso nel quale annuncerà raid aerei contro l'ISIS. Nel paese ha trovato una fossa comune con i corpi di 30 persone, tra loro 5 bambini. Confcommercio, il reddito disponibile delle famiglie è tornato ai livelli di 30 anni fa, primo giro di incontri tra Renzi, Pannon e i ministri sui tagli di spesa. La borsa. Borse in diretta. Con Milano che guadagna lo 0,04% sul FTSE MIB ed è in perfetto pareggio sul FTSE All Share, quindi una giornata non particolarmente brillante, così come non lo è a Parigi, meno 0,04%, né a Francoforte, meno 0,14%. Così come non lo è a Londra, che comunque guadagna lo 0,10%. Isabella Tassola, Io Corri, Il Sole 24 Ore, ciao e buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto un quadro generale e poi Fiat naturalmente, che guadagna il 2,6%. Sì, certo, ma guarda, i listini, come dicevi, sono piuttosto incerti, aspettano l'apertura di Wall Street e Piazza Affari è leggermente sopra la parità, a differenza degli altri, sostenuta da un buono spunto di alcuni titoli bancari, Mediobanca sale dell'1%, Popolare Emilia Romagna dell'1,5%, UBI Banca dell'1,4%, Montepaschi dell'1,2%. Gli occhi, come dicevi, sono tutti puntati su Fiat, più 2,8% dopo l'addio di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari, dove sarà sostituito dal 13 ottobre da Sergio Marchionne. Il mercato sta ipotizzando uno scorporo, uno spin-off del settore del lusso, quindi la quotazione di un polo del lusso che potrebbe comprendere Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. E quindi è su questo che scommette il mercato e per questo Fiat è il titolo migliore, guadagna il 2,5%, ma va bene un altro titolo della classe Fiat che è CNH, che guadagna l'1,18 l'euro, quota 1,2933 contro dollaro. Grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E veniamo a parlare di Iraq, ma non solo di Iraq, veniamo a parlare di terrorismo di casa nostra, per così dire, dopo quello che ha detto ieri il ministro dell'interno, Angelino Alfano, in un'informativa, dice l'Italia e Roma, simbolo della cristianità, potrebbero essere obiettivi dell'ISIS, organizzazione che rappresenta una minaccia senza precedenti per l'Occidente. Intanto però prima vi do un aggiornamento dall'Iraq medesimo, dove mentre è in corso, come vi abbiamo raccontato, la visita del segretario di Stato americano John Kerry nella capitale a Baghdad, nella stessa Baghdad c'è stato un ennesimo attentato, le vittime sono 7, quello che riferisce la TV Al Arabiya. Saluto Giacomo Stucchi, presidente del COPASI, il comitato di controllo sui servizi segreti. Stucchi, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Grazie a voi per avermi chiamato, buongiorno a tutti. Ed è tornato ai nostri microfoni anche Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Magri, bentornato. Grazie, buongiorno. Allora, partirei da Stucchi. Vorrei capire se anche a voi risulta quello che risulta al ministro dell'Interno. Immagino di sì. E quanto dobbiamo prendere seriamente questa minaccia, Stucchi? Sì, risulta naturalmente naturalmente anche a noi, risulta naturalmente con notizie anche un po' più approfondite di dettaglio. Proprio per questo condivido quello che è la preoccupazione del ministro Alfano, che è una preoccupazione reale, sicuramente non è una preoccupazione che viene messa lì per, diciamo così, creare un allarme, ma al contrario viene messa lì per cercare di far capire a tutti che ci stiamo confrontando con una realtà potenzialmente molto pericolosa e quindi bisogna porre la massima attenzione a ogni singola situazione che si possa verificare e possa anche sul nostro territorio sembrare tra virgolette strana, e quindi magari riferirla anche alle forze dell'ordine che sono impegnate nel prevenire determinati gesti che potrebbero essere molto così coenti o comunque vorrebbero avere effetti molto negativi sulla tranquillità dei nostri cittadini, cioè vitruviana. Senta Succhi, ho visto un po', se vogliamo, anche di confusione in questi giorni, no? In merito al termine reclutamento, perché tendiamo ad usarlo con due accezioni diverse. Da una parte intendiamo quelli che in Italia cercano combattenti da portare in Siria o in Iraq perché appunto lottino, combattano, facciano la guerra a fianco dell'ISIS. Dall'altra parte, con la stessa espressione, tendiamo a individuare, no, quell'idea di reclutare qualcuno in una rete terroristica che possa colpire anche in Italia. Io vorrei capire dalle vostre informazioni, dalle informazioni che avete, quanto sono presenti i due fenomeni. Il reclutamento è un'operazione che avviene nel territorio del nostro paese e che per fortuna non interessa grandi numeri, quelle poche persone che poi hanno deciso di seguire queste proposte che vengono fatte sono persone che non si trovano più nel territorio del nostro paese, parecchi sono cittadini italiani magari di seconda generazione, di prima generazione, nel senso che sono figli di stranieri arrivati con un'altra cittadinanza, spesso dal Medio Oriente, e oggi sono cittadini italiani perché hanno acquisito la cittadinanza, che tornano verso i paesi d'origine. Per quanto riguarda invece il reclutamento di soggetti che dovrebbero o sarebbero disponibili a compiere attentati terroristici nel nostro paese, questa è un'azione che viene svolta più all'esterno con obiettivi, diciamo, occidentali più che italiani, allarghiamo pure il discorso. Questa è un lavoro che viene seguito dalla nostra intelligence con molta attenzione, perché comunque tutti i soggetti che potrebbero essere problematici di solito già nel momento dell'arrivo, comunque subito dopo, danno dei segnali che possono far suonare il campanello d'allarme. Allora, Paolo Magri, direttore dell'ISPI, voi oggi presenterete una ricerca sul terrorismo internazionale nella quale c'è anche un capitolo dedicato all'Italia. Ci può dare un'idea di quello che emerge? È abbastanza in linea, e tra l'altro la ricerca è stata fatta in periodi non sospetti, quindi è stata fatta qualche mese fa, quando questo tema era molto più sotto traccia. Dicevo, la ricerca è abbastanza in linea con quanto è stato detto poco fa, ovvero che ci sono anche in Italia delle reti, però dobbiamo stare attenti su alcuni aspetti. Ci sono delle reti sicuramente che su internet fanno diffusione, quindi reti di propaganda. Ci sono però evidenze in passato in altri paesi che può verificarsi il passaggio dal solo ruolo di propaganda alla militanza attiva, cioè quel tipo di reclutamento, la prima eccezione di reclutamento a cui lei parlava poco fa. E quindi non è da escludere questa possibilità che ci siano, come già ci sono stati, del Nevo, che il giovane genovese ucciso in combattimenti in Siria, delle persone italiane o di seconda generazione di altri paesi che fanno il salto dall'attività di mera propaganda su internet, molto diffusa e anche contrastata dalle nostre forze dell'ordine, alla fase attiva. La cosa su cui dobbiamo portare attenzione però sono i termini. Una cosa è ISIS, una cosa è Jihad. In questo momento la minaccia di cui stiamo parlando è ISIS e non ci sono evidenze investigative, lo diceva lo stesso ministro Alfano, che ISIS abbia come obiettivo Roma, l'Italia, l'Europa. Le minacce, la propaganda durante l'uccisione dei giornalisti sono una cosa. Una cosa invece è l'altro fenomeno, quello della jihad, personal jihad, cioè i singoli individui che fanno attentati dimostrativi, che non è ISIS, ma che sono una minaccia non escludibile, quindi la cautela è d'obbligo. Faccio un ultimo commento. Certamente ci sono queste minacce, c'è soprattutto la minaccia globale. Non dimentichiamoci però che in questo momento tutti i principali paesi stanno anche preparando l'opinione pubblica in funzione del discorso di Obama di stanotte e quello che seguirà, una coalizione che si creerà per andare a colpire ISIS, stanno preparando l'opinione pubblica a un intervento che non è di stivali sul territorio, di soldati sul territorio, ma un intervento militare, quindi c'è anche questo tipo di preparazione. Senta Succhi, il fatto che si mandino armi ai curdi, ai peshmerga curdi, il fatto che l'Occidente prepari evidentemente un nuovo attacco sicuramente su scala più vasta ci mette ancora di più a rischio? Noi facciamo parte di questa coalizione di 10 paesi che sicuramente non sottovaluta il pericolo dell'ISIS e quindi giustamente cerchiamo di debellare questo fenomeno utilizzando quegli strumenti che sono necessari in casi come questi. È tutto l'Occidente che è in pericolo, non tanto un paese singolo. Sicuramente noi abbiamo all'interno dei nostri confini la presenza dello Stato del Vaticano e questo può risultare un ulteriore problema che può aggiungersi a quelli che già esistono, però non drammatizzerei questo tipo di questione. Dico che bisogna tenere alta l'attenzione in Italia come in Francia e come soprattutto in Gran Bretagna, che oggi mi risulta essere il paese all'interno dell'Unione molto più soggetto a eventuali pericoli. Comunque ci conferma e non risultano minacce specifiche, cioè non è stato intercettato, è stato intercettato qualcosa, qualche indicazione. Di questo tipo, però si lavora per cercare di coglierle appena dovessero manifestarsi. E vorrei, salutandola poi Stucchi, non adesso è chiaro, l'abbiamo chiamata nel suo ruolo istituzionale, lei però è un deputato della Lega Nord, ecco, non vorrei solleticare il suo leghismo, ma insomma questo enorme afflusso di immigrati, specie da quei paesi, può avere un impatto su tutto questo, cioè può rischiare di portare sul nostro territorio persone banalmente pericolose? Sì, può rischiare di portare sul territorio persone pericolose, c'è anche un altro fattore a tenere in considerazione, può anche rischiare di deludere le aspettative di tante di queste persone che arrivano, non si trovano poi inserite, c'è la famosa sindrome della Tour Eiffel, cioè dell'immigrato che arriva dall'Africa e va a vivere a Parigi, pensa di andare a vivere sugli Champs-Élysées piuttosto che con la Tour Eiffel davanti alla finestra, si trova a vivere nelle banlieue e quindi si arrabbia, si incazza, passatemi il termine, con tutto l'Occidente. Allo stesso modo potrebbe capitare a queste persone una volta tornate nei propri paesi o addirittura quando ancora sono presenti nel nostro paese. Allora, grazie a Giacomo Stucchi, presidente del COPASIR, deputato della Lega Nord, io lo saluto e lo ringrazio. Rimaniamo con Paolo Magri per un'ultima domanda che riguarda invece l'aspetto più internazionale della questione, quello a cui accennavamo già prima, ossia il discorso che Barack Obama sta preparando e che farà questa sera, tra l'altro alla vigilia dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre, quindi in una data oggettivamente significativa per gli Stati Uniti, e nel quale annuncerà appunto raid al confine tra Siria e Iraq, secondo quanto riporta la stampa internazionale in queste ore. Vorrei capire, Magri, se identifica una svolta in una politica americana nei confronti di quell'area che fino adesso molti osservatori avevano considerato debole e poco incisiva, oppure se è semplicemente un tentativo di mettere una toppa, per così dire, a questo giudizio. Ma tutte e due le cose. Nel senso che è sicuramente una svolta il fatto di presentare una strategia. Una settimana fa Obama ha ammesso che non aveva una strategia. È sicuramente una svolta il fatto di, per Obama, non per gli altri presidenti americani, di lavorare su un intervento militare che, nei termini che sappiamo, cioè colpi e intelligence, non certamente soldati. Sicuramente una svolta è lavorare su questo e creare una coalizione, è la prima volta che lo fa Obama, l'hanno fatto Bush padre, Bush figlio, l'ha fatto Clinton, Obama lo fa per la prima volta e quindi è sicuramente una svolta. È sicuramente una svolta rispetto a un anno fa, quando sulla Siria si decise di non intervenire, Obama decise di non intervenire e questa volta molto probabilmente ci dirà che continuerà a fare quello che sta già facendo, perché sono già 133 i colpi che gli Stati Uniti hanno lanciato verso ISIS. È una toppa in che senso? Nel senso che è facile dare i commenti ex post, ma se questa minaccia fosse stata presa sul serio anche prima della morte di un giornalista americano, forse le dimensioni di ISIS non sarebbero quelle che sono ora. ISIS si è rafforzato prendendo armi e soldi in questi anni, in quest'ultimo anno soprattutto, qualcosa si poteva interrompere prima. Allora, grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi, come sempre per la sua chiarezza. Prima del traffico, una breve risposta a Paolo, che dice: quando fate parlare uno dei 5 Stelle abbiate la sensibilità di far parlare la controparte. Le dico che tutta la mattina cerchiamo Bonaccini e Richetti, non siamo riusciti a rintracciarli, e insomma, questo spazio è aperto, e quindi quando vogliono parlare anche di questo siamo a disposizione. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, e tutti voi per l'ascolto. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci. Ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna come sempre domani alle 13:00.